mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi Two, two, two, two, hey, hey. Check one, two, mic check, one, two, mic check, one, two. Sound check. Microphone check. Il suono della musica. DJ Jet Telespro. Pomeriggio da Giorgio Telesforo, questo è il soundcheck di Radio 24, appuntamento numero 103. Oggi nostro ospite per parlare di musica, parlare di black music e soprattutto delle problematiche che vivono i giovani artisti e giovani musicisti in Italia, nel nostro paese, è il soul brother, soul singer Arnaldo Santoro. Buon pomeriggio e benvenuto al soundcheck, Arnaldo. Buon pomeriggio a voi, grazie dell'invito, Gigi. Allora, Arnaldo, tu ti sei formato musicalmente in una casa di appassionati di musica, tua madre ha ascoltato la black music, ti ha proposto quotidianamente delle flebo di Stevie Wonder, Michael Jackson, Earth, Wind & Fire e tutta la musica nera che piace e che suoniamo anche noi al soundcheck. Ti sei formato su questo tipo di vocalità e oggi ti stai levando alcuni sfizi, pur non avendo ancora registrato un album a tuo nome, ha già partecipato a vari progetti e hai anche lavorato per una mia produzione discografica recente per Columbia Records. Stai girando il mondo, ti stai guardando intorno. Quanto è difficile fare musica nel nostro paese per un ragazzo della tua età? Hai 22 anni? Sì, allora diciamo che non è proprio il massimo, diciamo, al momento la musica in questo paese, perché diciamo c'è poco spazio per la musica in generale, per un certo tipo di musica, appunto per il jazz, per l'R&B, per il soul. E quindi credo che la cosa migliore da fare alla nostra età, alla mia età, sia proprio quella di guardarsi intorno, di andare oltremare, insomma, perché comunque non c'è solo questo paese. Questo paese è meraviglioso, però fa bene, secondo me, alla mia età girare, conoscere altri paesi, conoscere altre persone, parlare un'altra lingua. E quindi, diciamo, ho deciso di voler fare alcuni giri e insomma ho iniziato da quest'anno e devo dire che sta andando veramente molto bene. Allora, tu hai studiato musica, stai studiando musica e hai anche vinto una borsa di studio alcuni anni fa che ti ha portato direttamente alla Venice Boys Academy di Los Angeles, dove ti sei fermato per un po', hai studiato con una bravissima insegnante di canto, tra l'altro anche nostra ospite qui al Soundcheck, Giovanna Gattuso. Sei rientrato in Italia, sei venuto in tournée con me, abbiamo fatto più o meno alcune decine di concerti insieme in grandi festival jazz più o meno importanti. Hai già un certo tipo di esperienza, però non hai ancora registrato il tuo album. Questo perché in Italia per produrre musica bisogna essere più vicini a uno stereotipo che quello dei reality show, quello del Festival di Sanremo, o che cosa stai aspettando? No, non credo sia per quello. Credo che per registrare un album, per scrivere insomma un album intero, bisogna avere i pezzi giusti, i testi giusti, insomma, quindi di lavoro ce n'è, non ho fretta, preferisco aspettare e fare un buon lavoro che avere la fretta di fare un lavoro e magari pentirmene fra qualche anno, quindi voglio aspettare, insomma, verrà, sarà, cioè insomma. Allora, facciamo subito una pausa con grande musica. Il tuo primo amore qual è stato? Il mio primo amore è stato The King of Pop, Michael Jackson. Ecco, allora, dal repertorio di Michael Jackson, anche se questa è una canzone scritta da Stevie Wonder per lui, intitolata I Can't Help It, ti faccio ascoltare la versione contemporanea di un talento strepitoso come quello della bellissima e bravissima Esperanza Spalding qui al Soundcheck di Radio 24. I can't help it if I wanted to. I can't help it even if I could. I can't help it if I wanted to. Can't Help It dal repertorio di Michael Jackson per la voce e il sound inconfondibile di Esperanza Spalding in questa puntata del Soundcheck con ospite il giovane soul brother italiano Arnaldo Santoro. Soundcheck. Il suono della musica. Intitola All I Have to Say, questo brano che vede la partecipazione anche del nostro ospite, il giovanissimo soul brother Arnaldo Santoro, da un progetto chiamato New Joy che ormai ha un anno di vita, ma in un anno e mezzo abbiamo già fatto alcune decine di concerti. Adesso ci siamo un po' allontanati perché Arnaldo sta seguendo con un suo progetto il suo percorso da musicista che lo ha già portato a Londra, città che sta scoprendo. Che emozione ti ha dato Londra? Che cosa hai trovato a Londra di particolare rispetto all'Italia, rispetto a Roma dove vivi? Ma diciamo che premetto che adoro il mio paese, adoro Roma, adoro l'Italia. Il problema, diciamo che c'è poco spazio a mio parere in questo paese per alcuni musicisti e per un certo tipo di genere musicale, perché per esempio ci sono pochi locali per fare jam session R&B, proprio, che è il genere alla quale io... Invece a Londra ho trovato moltissimo spazio per questo genere. Mi ha dato veramente molto questa città, tra varie culture e varie situazioni musicali, perché credo che oggi Londra sia un po' la New York europea, perché mi sono reso conto veramente di quanta gente c'è lì, di quante etnie diverse ci sono. E quindi è stato veramente fico, molto fico. Ecco, tu sei un giovane bianco che a Londra è salito sui palcoscenici di piccoli e grandi club con formazioni assolutamente black. Qual è stato il tipo di rapporto e di approccio? Quando ti hanno visto sul palco, secondo te, dagli sguardi che cosa pensavano? No, diciamo che dagli sguardi vedevo in loro proprio: ma chi è questo piccoletto bianco italiano col cappellino, con tutto bardato così, un po' impaurito. Però quando salgo là sopra, insomma, ti accendi. Mi accendo e mi eccito, quindi vado forte. Ti sei divertito e come stai messo con l'inglese? Perché quello poi è fondamentale, no? Molto, ed è fondamentale, sì. Diciamo che piano piano sta sempre migliorando. Non ho avuto problemi nel parlare con ragazze, anche persone che vengono dalla Corea, Giappone, Thailandia, insomma, non ho avuto problemi di comunicazione, quindi questo credo sia molto molto... Yeah. Intanto conosci il linguaggio della musica e quello è già è universale, no? Per poter comunicare. Qual è un musicista bianco, un cantante bianco che in qualche modo stimola la tua fantasia di giovane artista? Diciamo che uno dei miei preferiti nel mondo, diciamo, pop star, diciamo, è Justin Timberlake. Che cosa ti piace di Justin Timberlake? No, diciamo che ho già preso il biglietto e andrò a vederlo ad aprile. Ho speso tantissimi soldi, ma andrò a vederlo. Dove? All'O2 Arena a Londra. Ah, quindi torni a Londra per vedere Justin Timberlake? No, ho preso biglietto solo andata ad aprile, e quindi voglio vedere un po' che succede lì. A febbraio andrò a Parigi per alcuni concerti, quindi voglio girare, voglio tastare i territori, non voglio avere limiti. Che cosa ti piace di Justin Timberlake? Allora, canta da paura, balla da paura, suona, è fico, sta con una delle mie preferite, Jessica Alba, insomma, che gli vuoi dire? Allora, ascoltiamo Justin Timberlake, che tra l'altro si è anche accaparrato un Grammy Award quest'anno, proprio con la nuova produzione 2020. Il brano che vi presento, che tra l'altro hai scelto tu, si intitola Sweet and Tie, quindi un Justin Timberlake in giacca e cravatta. Soundcheck, il suono della musica. Il giovane soul brother italiano Arnaldo Santoro, nostro ospite qui al Soundcheck, ci ha raccontato che è in perenne movimento da qualche anno fra gli Stati Uniti, Londra, Parigi, proprio per cercare la sua strada, cosa che consigli un po' a tutti i giovani musicisti e i giovani artisti italiani. Sì, consiglio a tutti, ma anche chi vuole fare pop, rock, metal, diciamo che fa bene, fa bene stare lontano di casa alla nostra età, fa bene stare un attimo per conto proprio e pensare a ciò che veramente vogliamo fare, a ciò che ci fa stare bene, a ciò che ci serve, perché la musica insomma è una cosa più grande di noi, quindi serve studiare, serve stare in mezzo ad altri musicisti, serve stare in mezzo a persone più brave di te, più preparate, quindi è molto più stimolante, bisogna essere stimolati alla nostra età, credo. Però quello che ci insegna un po' la dinamica nella musica, soprattutto nel rapporto proprio fra il talento, la televisione, la discografia, è un po' il messaggio che ci arriva dai reality show, di avere una grande voce e se va bene lì la tua carriera è avviata. Invece tu che cosa consigli? No, penso che questa sia una cosa veramente sbagliata, perché innanzitutto nei reality o nei talent, queste cose qui, insomma, si pensa sempre che chi arriva lì, chi sta in quella scatola per quei 3 mesi, poi è arrivato o è famoso o è cose. Diciamo che la cosa più sana e principale da fare, prima di tutto, è essere preparati e studiare e avere esperienza, quindi suonare in giro, andare in giro per i locali, jam session, fare viaggi, andare intorno al mondo, insomma. Quindi il messaggio che ci danno questi talent, secondo me, è sbagliato, perché è un po' il messaggio che chi arriva più in alto, chi prende la nota più alta a voce piena, è bravo, chi fa altro genere non può arrivare, e quindi questo non è sano, secondo me, non è un messaggio sano. Quindi che cos'è? Che lì si punta un po' a degli stereotipi che ormai nel nostro paese vanno in voga da un po' di tempo, quindi se sei fuori da questi stereotipi, se non hai quel tipo di vocalità muscolare, sei tagliato fuori. Allora, vediamo invece che tipo di vocalità hai tu, e lo verifichiamo proprio con questa canzone intitolata Last Goodbye, che è stato anche un singolo tratto da New Joy, che è primo in classifica per diverse settimane in iTunes Jazz qui nel nostro paese ormai un anno fa. Il brano è Last Goodbye, la voce è quella di Arnaldo Santoro. There's a place where love is all you need. You need, yeah. It's the time to free your mind and be. Can you feel the changes all around? Got the love for you, my soul, my sound. E siamo ai saluti, grazie Arnaldo Santoro, nostro ospite al Soundcheck. Io ti auguro veramente di poter inseguire nel migliore dei modi, in maniera assolutamente sana, le tue aspirazioni, la tua musica, la tua carriera fra New York, Los Angeles, Londra, Parigi. Cerca comunque di divertirti e di fare il possibile per vivere al 100% tutta la tua voglia di musica. Gigi, grazie mille, ringrazio tutti gli ascoltatori, insomma, che ci stanno ascoltando in questo momento. E niente, volevo dire che comunque è stato un grandissimo onore essere qui con te, un grandissimo piacere, mi sono divertito veramente tanto e fai un programma veramente figo ed è sano e giusto avere questi programmi nel nostro paese, grande. Allora, chiudiamo con un brano che hai scelto tu, una giovane band australiana che ha preso una nomination al Grammy Award ultimamente proprio come migliore nuova scoperta della musica contemporanea. Si chiamano Hiatus Keyote, la voce è quella della vocalist Ney Palm, leader di questa bellissima band, con la partecipazione del rapper Q-Tip. Grazie a tutti voi, grazie a Arnaldo Santoro, ci risentiamo domani alle 15:20 sempre su Radio 24. Il nostro indirizzo di posta elettronica è soundcheck@radio24.it. Buon pomeriggio e buona musica da Gigi Telesforo. Check, il suono della musica.